I suppose I could collect my books and get on back to school. Rod Stewart, Early Bird Special, martedì 13 novembre. È dura, ragazzi, è dura, lo so, ma insieme ce la faremo. E per voi ho fatto una scelta molto particolare questa mattina di cose da dire, ma soprattutto di cose da farvi ascoltare. Solo il meglio per voi, perché ve lo meritate. Van Halen, When It's Love. her like it used to be with me. Ooh, it makes me want to die. Accept the fact she's chosen him and simply let them be. Whoa, whoa, whoa. Well, here it comes. Here comes the night. Here comes the night. Oh, yeah. The way I used to do. I could see her closing her eyes and telling him lies exactly like she told me to. Yeah, yeah, yeah, well, here it comes. Here comes the night. Come, here comes the night. Ma van, è here comes the day, non the night. Perché questo è l'Early Bird Special. Perché questa è la prima colazione tutti i giorni dalle 6 alle 7 qui da Rock FM. Ehi, ehi, sapete qual è il disco dei Pink Floyd preferito da Brian May dei Queen? E quello da preferito da Iggy Pop? Beh, se rimarrete col vecchio Chuck Bird ancora per qualche minuto, lo saprete sicuramente. Appena dopo esserci ascoltati gli Heart. Side, standing by the road. Do is make love to you. I Heart, all'Early Bird Special. Ma non è degli Heart che vi voglio parlare, ma dei Pink Floyd. Anzi, di quello che pensano i grandi artisti dei Pink Floyd. Credo che ogni ascoltatore di Rock FM abbia un'opinione sui Pink Floyd. E credo che anche se non siete dei veri e propri fan, avete certamente un album dei Pink Floyd che preferite agli altri. Beh, se il vostro album dei Pink Floyd preferito è Wish You Were Here, vi farà piacere sapere che con voi c'è anche Brian May, chitarrista di Queen. Brian dichiara che le carriere dei suoi Queen e dei Pink Floyd per un certo periodo andavano di pari passo. Il chitarrista fu abbastanza fortunato da vederli dal vivo nel 1969 e ribadisce che dal vivo sono state una delle grandi band della storia del rock. E se lo dice lui, possiamo crederci. Iggy Pop appartiene alla più ridotta schiera di fan che preferisce i Pink Floyd della prima ora, quelli con Syd Barrett per intenderci. L'album preferito dell'Iguana è infatti The Piper at the Gates of Dawn. The Wall è invece la scelta di Marilyn Manson, che afferma: i Pink Floyd sono per me una band sacra, tanto che non mi arrischierò mai di suonare una cover. I Pink Floyd sono in assoluto la band che ascolto di più, continua il reverendo. Oggi, esattamente come quando ero ragazzino, la scelta cade invariabilmente su The Wall. Consigliati da Marilyn Manson, eccoci a proporvi Young Lust, da The Wall, naturalmente. Pink Floyd, Early Bird Special, un faticoso martedì 13 novembre questo. Ragazzi, è dura anche per il vecchio Chuck Bird, ma insieme ce l'abbiamo fatta, siamo arrivati fino in fondo anche questa mattina. Cari passerottine e care passerottine, io vi ringrazio per l'ascolto e naturalmente vi invito a rimanere sintonizzati su Rock FM, perché questa è la migliore stazione radio del mondo, perché qui c'è la migliore musica di tutti i tempi. Fra poco per voi ci sarà pane, burro e rock and roll con DJ Riele e Freak Anthony. Io vi rimando l'appuntamento a domani mattina dalle 6 alle 7, sempre su Rock FM, sempre Early Bird Special. Da Chuck Bird è tutto. Aloha.